الذاكرة التاريخية الذاكرة التاريخية تكلم عن الوحدة الإنسانية بشكل عام نستعمل رغم تقربهم من الحروب والأزمات التي تحدث بين الشعوب ثم تحدث عن إشكاليات الماضي وعن اكتشافات الحاضر وصعوبة مواجهة التحديات في الوقت الحاضر وصعوبة حلها أو إيجاد حلول ناجعة لها على ذلك يؤكد على أهمية الحوار بين الجامعات لمواجهة هذا الواقع فكيف يكون تغيير هذا الواقع تغير الواقع بأولا أن تكون هناك نماذج خاضعة للتساؤل أي للرغبة في البحث عن حلول إيجاد نماذج جديدة شيء آخر أهمية الدراسات الجيوسياسية وبرنامج لتحديد آفاق الهوية التاريخية لكل شعب ثم كيفية التعامل مع قضية مع المغرب العربي وتحديد سياسات معينة لذلك يقترح أن تكون هناك أن يكون هناك منبر ثقافي أو مرصد ثقافي بين المغرب وإيطاليا لرصد الحركات الثقافية ولخلق نوع من ما يسمى بالتحالفات الثقافية الثاني هناك لهذه الجمعية مركز للمؤتمرات في مدينة فيتيربو قريبة من روما مركز كبير لدراسة الذاكرة التاريخية ويقترح عقد مؤتمر به وبالمغرب في هذا السياق الآخر تشجيع أطروحات الدبلوماسية الموازية كما نظر لها المؤرخ بوسكاس وهو أستاذ من رومانيا كان يجب أن يكون معنا في ظروف ما لم يكن وبذلك يرى أنه على كل مسؤول أن يقوم بما يجب عليه إن كان مقتنعا بهذه الأطروحات والسلام عليكم Grazie al nostro professor Enzo Zanducci, so che ha fatto una fatica per essere qua, gli sono doppiamente grata, ci siamo doppiamente grati. Grazie soprattutto che fa queste magistrali traduzioni dall'arabo in cui riesce a riassumere in poche parole delle cose complicate che vengono dette. Io capisco una parola ogni cinque, ma vedo che lui non perde niente delle cose essenziali, lo fa veramente eccezionale. E adesso abbiamo la comunicazione del professore Vincenzo Porcasi, il nostro docente della Cusano di diritto del commercio internazionale e assieme al professor Martud anima di questo incontro. Professor Porcasi, a lei la parola. Grazie Presidente. È un'occasione straordinaria che questo incontro avvenga il 13 maggio. Il 13 maggio è una data non indifferente per tutte le parti presenti. Perché? Perché il 13 maggio è avvenuto in Europa un evento, almeno nella tradizione cattolica, un evento, la comparsa in Portogallo, nel villaggio di Fatima, della Madre di Cristo. Madre di Cristo che è presentissima nel Parco, anche se porta il nome di Migno. cos'è importante? Il rilascio del re e il nome della figlia del momento, Fatima. Terzo evento che si è verificato nello stesso tempo. Il grande condottiero cristiano, l'uomo che, salvando la sua colonia, perché c'è ancora da dire, in effetti, grazie ai polacchi che si fermarono a Monfalcone perché venne l'ordine di non proseguire la guerra della seconda guerra mondiale verso la Russia, quei polacchi congedati non tornarono in patria, andarono negli Stati Uniti, chi? Qualche altro in Francia, qualche altro in Inghilterra. Pochi vennero in Italia. Questi polacchi raccolsero i fondi necessari a salvare dall'intervento russo della Guardia Rossa la Polonia, finanziando attraverso però la banca terminale dell'operazione di finanziamento, cioè la banca raccoglitore dei mezzi, finanziando la sopravvivenza fisica degli operai polacchi e correlativamente dei contadini polacchi che stavano attraversando una stagione di invenduto e quindi di incapacità a pagare gli stipendi da parte della pubblica amministrazione o delle cooperative di produzione e lavoro esistenti in Polonia. Naturalmente quel salvataggio fatto non nell'interesse degli Stati Uniti d'America, ma nell'interesse di polacchi del resto del mondo, ha consentito di realizzare un salvataggio a cui né gli Stati Uniti, peraltro, né le Nazioni Unite, né l'Unione Europea, ancora nella forma di comunità europea, stava pensando. Questo è un momento di quanto oggi si è detto. L'iniziativa che, partendo dal popolo, ricostituisce il significato di partecipazione alla gestione della cosa pubblica, che poi altro non è che il concetto di democrazia, quello stesso concetto di cui ha parlato Maneri, cioè di politica europea di vicinato, che finalmente l'Unione Europea ha proposto ai partner mediterranei concretamente, e finalmente si parla, superato il processo di Barcellona, superato tutto il fallimento delle politiche di vicinato, è illustrato oggi coraggiosamente dal ministro Campo, fallimento dell'Unione per il Mediterraneo, perché obiettivamente l'Unione per il Mediterraneo andava sugli ultimi episodi del dialogo 5 più 5 fra i paesi della sponda sud del Mediterraneo e i paesi del Maghreb, proprio identificati, dai 5 più 5 si è passati attraverso una certa idea di Sarkozy alla realizzazione dell'Unione per il Mediterraneo, forse da Barcellona. Naturalmente molta freddezza aveva accolto la nascita dell'Unione per il Mediterraneo da parte dei paesi maghrebini, che intanto avevano organizzato separatamente l'Unione Maghrebina Araba. Un'avventura non di poco conto, un'avventura fondamentale nel quadro delle relazioni nord-sud, abbondantemente oggi richiamato. Perché l'Unione Maghrebina Araba aveva avuto importanza singolare? Perché consentiva a delle realtà locali di, con una sola voce, interloquire quantomeno col Mediterraneo meridionale e più in generale con l'intera Unione Europea, mantenendo altresì una forte dignità autonoma rispetto alla stessa Unione Europea, perché l'Unione Maghrebina Araba fino al 2009-2010 riusciva a dialogare al di là dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che comunque era nata dalla Grecia, con gli Stati Uniti d'America, avviando, mentre il concetto di Organizzazione Mondiale del Commercio è la multilateralità, l'Unione Maghrebina Araba riusciva a incardinare al proprio interno le due componenti, multilateralità e bilateralità. Esempio di bilateralità, l'Unione Monetaria di fatto tra Tunisia e Libia, che che aveva portato tantissimi vantaggi alla Libia, perché la Libia è nata la crisi di 21 anni di sostegno alimentare, quantomeno, sostegno a livello di assistenza sanitaria, perché i 15 anni passavano per la Tunisia, e in cambio l'Unione Monetaria consentiva al dinaro tunisino di risolvere il suo corso sostenuto dal dinaro libico, obiettivamente. Ma da una parte questo, dall'altra parte quella sorta di tentativo di nascita di un'unione doganale insieme con una nomenclatura doganale comune, fra l'esperienza avanzatissima del Marocco nell'ambito della nomenclatura doganale e dei rapporti doganali verso l'estero, e il ritardo che contraddistingueva i paesi che andavano dall'Egitto su fino all'Algeria. Tutto questo consentiva appunto di esprimere delle voci di innovazione che sono state richiamate oggi, quelle cioè di adozione da parte del Marocco della acquis communautaire, come giustamente osservava la professoressa Magnini, della acquis communautaire che consente non tanto e non solo la ricezione di strumenti giuridici di quel pianoforte di concertazione giuridica che è rappresentato dalla acquis communautaire, ma introduce parimenti nel Marocco e nell'Unione Europea la ricezione di quelle 50.000 norme che vanno dalle norme ISO sulla qualità agli standard per lo sviluppo della produzione comune, per lo sviluppo della produzione comune cui i prodotti e i beni, i prodotti della terra e beni industriali o beni trasformati dai minerali hanno diritto per la libera circolazione. Strumento attraverso il quale può avvenire il superamento della parcellizzazione, quello il piccolo che era stato richiamato dalla Presidente della Commissione Internazionalizzazione. Che cosa aveva sottolineato lui? Attualmente la delicatezza della comunicazione fra operatori economici è costituita dal fatto che non esiste una regola comune, è un ordinamento giuridico diverso che bisogna armonizzare, e varie volte è stato ripetuto e segnato armonizzare. Il problema non è resistere, è armonizzare, che non significa compromettere, significa semplicemente prendere il meglio secondo la richiesta che è comune dal mercato internazionale dei beni e dei servizi e dei prodotti. Perché un evento è successo circa 30 anni fa, l'introduzione nel Mediterraneo del concetto di dieta mediterranea, che ha capovolto l'intero sistema di distribuzione e di positiva collocazione del prodotto mediterraneo. Ora, un dato di fatto, noi non possiamo tenere le concorrenze delle singole nazionalità, abbiamo di fronte il bacino mondiale, abbiamo intanto il mercato interno, 500 milioni di persone all'interno dell'Unione Europea, ma abbiamo anche 120 milioni, correggetemi se sbaglio, più o meno, di persone esistenti nell'area dell'Unione Mediterranea, e quindi siamo a 620 milioni, quindi coprire la domanda interna. Secondario, abbiamo di fronte 620 milioni di persone che si confrontano con 7 miliardi di persone, perché questa è la realtà, con 6 miliardi e 400 milioni di persone. Se vogliamo fare una politica che porti con sé la dieta mediterranea, non possiamo non porci la domanda: esistono le quantità necessarie a soddisfare il mondo secondo gli standard e le qualità richieste dal mondo? Perché ormai il consumatore è informato. Stiamo parlando, e ne abbiamo parlato a lungo oggi, della formazione di un nuovo centro dirigente. Lui è la delega e passa per le mani tue, di questa università, dell'Università di Parigi, Marrakesh e di tutte quelle altre piattaforme universitarie che possono fra di loro lavorare per costruire insieme la nuova classe dirigente. E la nuova classe dirigente non è solamente quella politica, o prestata occasionalmente alla politica. L'esempio della Banca d'Italia in Italia è lungimirante, sono 30 anni che si alternano i governi e 30 anni che la Banca d'Italia mette le pezze ai singoli governi prestando talora il proprio direttore generale, talora un membro del direttorio, talora un governatore e più volte dai tempi del povero Banchi che ci morì di dispiacere per gli avvenimenti che lo coinvolsero, in avanti la Banca d'Italia si è separata, così come l'Unione Europea, l'insieme delle banche centrali europee si è separato dalla vita, dalla politica, prestandosi a sostegno dell'attività della politica. E questo stesso avviene, c'è disponibilità che avvenga anche nell'area dell'Unione Magrebina Araba, perché il tema per soddisfare il bisogno di fornire olio di oliva, abbiamo detto dieta mediterranea, alla base della dieta mediterranea c'è l'olio di oliva, l'ha capito la Sacra, che oliva neta o oliva da mangiare o oliva di montagna da mangiare in Italia non ce n'è a sufficienza, ma l'ha capito 30 anni fa la Sacra, che fa ottime olive insaccate, le fa tutte in Marocco. E naturalmente lei non parla di produzione marocchina, lei parla di dieta mediterranea. E il ragionamento è unico, ma si chiama Sacra perché l'idea è nata qui, dell'impacchettamento e del servizio. Servizio diretto a migliorare la qualità della vita in termini di repressione dei fenomeni che vanno sotto il nome di colesterolo, che vanno sotto il nome di tutte quelle altre abbozzi che man mano che incrementiamo in termini di passaggio del tempo, naturalmente sopravvengono. E ci aiutano nel ruolo. Ma allo stesso modo, consideriamo, noi siamo grandi produttori di olio di oliva, nel concreto. E l'olio di oliva fa bene, ma c'è un piccolo particolare. Siamo grandi produttori di olio di oliva che ci mangiamo da soli senza portarlo al supermercato. Non c'è un litro di olio di oliva nei supermercati italiani, così come nei supermercati d'Europa, che nasca da frantoi italiani. Tutto viene dal bacino mediterraneo, viene dalla difficile Tunisia, viene dagli amici del Marocco. E posso dire che la collaborazione fra frantoiani italiani e frantoiani marocchini si è sviluppata tantissimo. Ormai c'è questo processo di collaborazione intrinseca, per cui l'olio, prima di essere raffinato, viene raccolto dai produttori marocchini, frantoiato nelle macine a capitale misto e poi avviato verso il mercato internazionale che fa borsa in un piccolo paese italiano, Fasano, che è l'elemento di innovazione, il punto di distribuzione di accesso all'Europa e delle Puglie. Ecco, la risposta alla qualità e altre quantità, l'Unione Europea per tutta una serie di settori non ha le quantità. È come il discorso, l'Unione Europea può fare il cardigan di cashmere, amica, non lo può fare perché non c'è il cashmere, né il clima è adatto a recepire gli animali portatrici del cashmere, portatori del cashmere. La cooperazione internazionale deve essere fondata sull'armonizzazione delle norme, l'armonizzazione delle misure, cioè la certificazione di qualità, l'adozione di standard che siano uniformi, tali da consentire la libera circolazione sulla base di regole comuni e che perfettamente ci dicono a che cosa serve quel certo tipo di prodotto sotto il profilo nutrizionale o quel certo tipo di bene per consentire che un sistema elettrico funzioni bene. A titolo di esempio, oppure che un veicolo motorizzato parta e arriva, perché materialmente il compito di una macchina è a un certo momento offrire condizioni di sicurezza, ma soprattutto partire e arrivare, stando più o meno bene seduti sull'automobile, ma non necessariamente seduti sull'automobile, visto che oggi si sta parlando del pilota automatico, come in realtà l'automobile è, diciamo così, che è stata citata prima, è lo strumento. Adesso il programma è che fonda il tutto sulla creatività, cosa dà? Dà un influsso alla gente, perché bene, adesso radicare il concetto di democrazia nella gente. E il processo di democrazia si radica nella gente sopraendo le sacche di povertà, quanto di residuo vi è ancora. Ma attenzione, il processo di sottrazione alla povertà significa riattribuire, perché la povertà estrema comporta l'assenza di dignità. La miseria umana, fisica e morale. Il problema è far uscire dalla povertà attribuendo un ruolo, a questo è citato il caso del microcredito, utilizzato per dare dignità materialmente, per dare dignità materialmente. Ed è estremamente importante, perché ciò che deve costruirsi è una società capace di dare risposte di significato all'interno delle quali c'è attribuzione di dignità e uscita dalla povertà, che significa qualità della vita, che sono gli obiettivi di cui parlava nel suo campo prima. Qualità della vita. Sul punto delle notizie separate, ottobre, novembre, non a Roma, in città del Vaticano, con i premi Nobel selezionati da questo parte, verranno per parlare di qualità. Esattamente il discorso che a Marzia Sente è venuto a fare di recente, è uno dei convocati, insieme a Mohamed Yunus, insieme ad altri. Il problema non è più il microcredito, lo strumento. Il problema è fondare un social business fondato naturalmente sulla teoria della conoscenza, perché se non c'è la conoscenza non è possibile accedere a strumenti che diano vita al social business. E fare una nuova proposta che sembra nuova, ma altro non è che una lettura di quanto nel programma Millennium Goal Kofi Annan aveva proposto 20 anni fa, e che aveva per obiettivo nel 2015 dimezzare la povertà esistente al mondo. Non ci siamo. Solo il 20% della povertà esistente al mondo è uscita, ma non per realizzazione del programma di Kofi Annan. Si era proposto da Kofi Annan e da Cinerabidine Benali la creazione del Fondo Mondiale di Solidarietà, approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la partecipazione attiva di tutti gli stati magrebini, e il Fondo Mondiale di Solidarietà non ha d'accordo i denari necessari a svolgere l'attività, un'attività tale da consentire al 50% dei poveri del mondo di uscire dalla condizione di povertà. Ma la condizione di povertà è sempre più focale, ed è questo l'oggetto della riunione vaticana. Come creare consapevolezza e quindi uscita dalla povertà attraverso iniziative concrete che siano mantenibili nel tempo e non semplicemente occasionali, all'interno di un concetto di solidarietà che deve partire da un presupposto. E il presupposto, sono cattolico, mi sono frate pure, anche se non per altro verso, ma il discorso è quello di Zaccheo, che poveraccio, era un povero peccatore, e arriva ad un certo punto e l'uomo è il sicomoro, se ne sale sul sicomoro perché lui voleva vederlo e riesce a vederlo al punto da farsi sentire non visibile perché era sul sicomoro e obbligare lui Zaccheo a portarlo a pranzo, a portarlo a cena, ma non da solo, con tutto il suo seguito, perché non si muoveva mica da solo, si muoveva con tutto il suo seguito. Il problema è trasformare la ricchezza detenuta. Ieri abbiamo sentito dagli organi di stampa che a Londra vi è la più alta concentrazione di ipermiliardari. Ma il fatto di essere ipermiliardari serve a qualche cosa? Visto che con il trascorrere del tempo anche la passarella può diventare un problema alimentare, perché può fare male a vivere piuttosto che a qualche altra cosa. E l'invidia piuttosto che la zucchina può essere più utile della mozzarella. E sicuramente ci viene detto che le carni di vitello, le cose che meraviglia che fosse il caso che sia dichiarato o dichiarato inesistente. Bene, il ragionamento è esattamente questo, da che punto partire? A me non interessa che sia caratterizzata da una croce piuttosto che da una mezzaluna oppure da una stella a 5 punti o a tanti punti. A me interessa uscire dalla domanda creando nuovamente le condizioni perché ci sia armonia nel Mediterraneo e praticamente anche in questa direzione. Armonia nel Mediterraneo, come ci spiega alcune, oggi è stata ventilata da parte dell'amico e collega Guarelli. Ma abbiamo il coraggio di creare un mappa mediterraneo, direi, ma vogliamo pensare alla cittadinanza mediterranea? Concretamente parlando, per categorie, cominciamo dalle categorie. I medici, ma se la medicina è tutta una, è della medicina che risponde ai requisiti dei malati, ai problemi dei malati, in Francia così come a Treviri, piuttosto che non a Palermo, perché non ce ne sono un ordine dei medici? Certo, gli infermieri abbiamo organizzato di fatto, non di diritto, non esiste un albo degli infermieri. Gli infermieri che vengono dal Marocco così come dalla Mongolia, piuttosto che non dall'Ucraina, purché parlino l'italiano, hanno il diritto di essere sistemati benissimo in Italia e trovare piena accoglienza nel sistema Italia. Anzi, noi tutti che siamo stati ospedalizzati dobbiamo solo dire grazie alle signore, infermiere, marocchine, turche, bulgare, rumene e ucraine che ci hanno assistito nei momenti più fastidiosi possibili attraversati in quella certa data, obiettivamente. Ma beh, il medico è esattamente la medesima cosa. È la stessa maniera come, per esempio, i vigili del fuoco. I vigili del fuoco fanno lo stesso mestiere dappertutto. Non può essere un corpo europeo dei vigili del fuoco. Noi abbiamo un problema. Fra poco, già in Marocco ieri mi dicevano gli illustri ospiti, sono partiti avendo 42 gradi di temperatura. Presto le avremo anche da noi. Oggi a Palermo credo che ci siano 32 gradi. Che cosa porta l'eccesso di temperatura insieme al vizio di fumare, che parte da me naturalmente, e di lanciare le sigarette fuori dal finestrino della macchina nella casa mia? Gli incendi. Ma il problema non è comune per tutta l'aria per caso. Non è lo stesso, perché a Copenaghen a luglio fa più fresco che in Italia? Assolutamente no. Piuttosto che non a Lipsia, piuttosto che non a Malmö. Quando arriva l'estate, è estate. Pochi giorni forse. La cittadinanza mediterranea, così, mediterranea intesa nel senso dell'Unione Europea, anzi meglio, delle Nazioni Unite, della Commissione Economica dell'Europa, delle Nazioni. E l'hanno detto, il punto non è la forza dell'Europa, il punto è la debolezza dell'Europa. Se non avessimo le risorse umane, finanziarie e naturali che vengono dal bacino e dai paesi dell'est, l'UNECE arriva molto più in là. L'UNECE dice che il confine orientale passa per l'Afghanistan. Ma naturalmente noi non possiamo relazionarci agli altri esportando un modello di democrazia teoricamente, presuntamente più valida e originale. E poi esportarla come? Con le bombe. Come l'abbiamo fatto da 20 anni, 30 anni a questa parte. Il modello è la crescita comune, perché la crescita comune è nel rispetto del sistema legislativo che va potenziato, strutturato, con il metodo analogico del chiasso, mi permetto di usare un termine del vostro, e non con il tema dell'interpretazione. L'interpretazione è facile. Io casso l'articolo 50 di qualche cosa per il semplice motivo che non mi sta più bene l'articolo 50. L'interpreto. Ma non si può interpretare. C'è un'evoluzione del diritto che nasce dalla civiltà in cammino. E i miei maestri mi insegnano. È la civiltà in comune, in cammino, che fa il diritto. Ma non la civiltà della violenza. La civiltà della non violenza. Come diceva Gabbini o quant'altro. E quindi questo convegno fra università, fra i massimi livelli della magistratura, fra le varie componenti, può essere il primo luogo di un cammino da fare insieme, in vista della creazione per parti sociali della cittadinanza mediterranea. Grazie. Grazie Preside, devo ringraziare proprio la Preside a nome di tutta l'Università. possibilità, diciamo, per organizzare, per organizzare questo convegno, personalmente per avermi invitato a contribuire alla sua realizzazione e unirmi appunto al benvenuto ai nostri ospiti marocchini, premettendo anche che non voglio, diciamo, abusare a quest'ora del pomeriggio troppo della pazienza dell'uditorio, e vorrei proporvi e affidarvi solo qualche breve riflessione sul tema che mi è stato assegnato, che è appunto uno sguardo sulla realtà del Marocco a livello di presenza nell'ambito della comunità internazionale. E questo sguardo, diciamo, questo studio è stata l'occasione per riflettere un po' sull'evoluzione della disciplina che qui insegno, qui alla Niccolò Cusano, e che mi appassiona particolarmente, che è proprio quella, la materia jus internazionalistica, un diritto che molto spesso viene giustamente criticato, viene giustamente messo in discussione, perché a volte i confini degli aspetti giuridici sono un po' sottili rispetto a quelli politici, rispetto a quelli economici, ma questo, oltre a essere forse il lato debole, la parte debole del diritto internazionale, può essere anche il suo punto di forza. Ci sono recenti dottrine molto interessanti,